La principessa luminosa. Molto, molto tempo fa viveva un re che si ammalò gravemente a causa di un incantesimo malvagio. C'era solo una cosa che poteva salvarlo. Come sta? Questo è un incantesimo molto forte e c'è solo una medicina per questo incantesimo, ma è molto, molto difficile da trovare. Ditemi di cosa si tratta, dottore. Andrò in capo al mondo per trovarlo. Abbiamo bisogno dell'argilla della tana di una lepre. La tana dovrebbe essere vecchia almeno 10 anni e abbiamo bisogno del terreno entro 3 giorni. Troverò una tana, va bene, ma come faccio a sapere quanti anni ha? Dovrai correre un rischio. Il principe si avviò nella foresta per trovare una tana di lepre. Cavalcò a lungo e duramente, ma non vide una sola lepre. Finché all'improvviso una lepre attraversò il suo cammino. Il principe saltò dal cavallo per non perdere la lepre di vista e corse dietro di essa. Corse dietro la lepre ed entrò in una grotta. Una grotta che apparteneva ad un gigante malvagio. Il gigante vide il principe. Bene, chi abbiamo qui? È un principe? Come osi entrare nella mia caverna? Ho bisogno del terreno della tana di una lepre. Per favore, fammelo prendere. La vita di mio padre dipende da questo. Tornerò e potrai punirmi quanto vorrai. Ma per ora, per favore, lasciami inseguire la lepre. Sembra forse uno sciocco che ti lascia andare così. Non vai da nessuna parte. Oh, lasciami andare, per favore. Per 2 giorni e 2 notti il principe rimase nel baule. Fece del suo meglio per uscire, ma non ci riuscì. Era disperatamente preoccupato per suo padre. La seconda notte il baule venne improvvisamente aperto. Il principe trasalì per una strana luce e vide una fanciulla, la donna più luminosa mai vista in tutto il mondo. Sono la lepre che hai seguito l'altro giorno. Il gigante ha fatto un incantesimo che mi trasforma in una lepre durante il giorno e la notte ritorno alla mia vera forma. Presto! Il gigante è fuori. Scappa prima che torni e prendi questa terra dalla tana di 10 anni di una lepre per tuo padre. Vai ora. Grazie mille, principessa. Dimmi, come posso aiutarti? Fuggi da qui adesso. E quando tuo padre starà bene, esci e vai in giro per il mondo. Troverai un modo per aiutarmi. Adesso vattene. Il principe fece come gli era stato detto. Andò nel palazzo e salvò la vita di suo padre. E poi, come aveva detto la principessa, decise di girovagare per il mondo. Padre, ora che stai bene, c'è una promessa che devo rispettare. Capisco, figlio mio. La principessa mi ha salvato la vita. Ti permetto di fare tutto il necessario per aiutarla. Devo vagare per il mondo, ma non lo farò come un principe. Lo farò nelle vesti di un normale giovane. Imparerò un mestiere. Ottimo. Ti auguro il meglio, figliolo, e torna presto. Quindi il principe lasciò il palazzo nelle vesti di un giovane. Andò lontano, finché una notte incontrò un pescatore in una locanda. Ehi, giovanotto, non ti ho mai visto prima. Nuovo da queste parti? Sì, sto cercando un lavoro da imparare. Allora, perché non vieni con me? Mani forti come le tue potrebbero essermi di grande aiuto. Vuoi diventare un pescatore? Sì, non vedo perché no. Quindi il principe andò con il pescatore e imparò il mestiere della pesca. Il principe lavorò così duramente che il pescatore fu contento. Quando venne il momento per il principe di andare, il pescatore gli diede una rete. Questa rete mi è stata data da un mago. Nessun pesce al mondo è abbastanza forte da romperla. Portala con te. Grazie mille. E così il principe proseguì. Quando ebbe fame, pescò. Quando ebbe bisogno di soldi, vendette il pesce e così continuò a vagare fino a quando, alla fine, raggiunse un nuovo regno, il cui palazzo brillava di mille luci durante la notte. Chiese informazioni ad un passante. Amico, sono nuovo di qui. Per favore, dimmi perché il palazzo è decorato così? C'è un'occasione speciale stasera? Oh, il palazzo è decorato così ogni notte. Il re, un padre orgoglioso, celebra la bellezza della nostra principessa e il re sfida chiunque a parlargli di una donna che brilla più di sua figlia. Nessuno è mai arrivato con la notizia di una fanciulla più splendida della nostra principessa. Ma perché tale enfasi solo per la bellezza? È solo l'orgoglio di un padre. La nostra principessa conosce molto bene tutti i tipi di sport ed arte. Ma desidera segretamente che qualcuno trovi una donna che brilla più di lei in modo che suo padre la smetta con questa celebrazione. Lo trova davvero imbarazzante. Forse posso aiutare la principessa. Quindi il principe andò alla corte del re. Vostra Altezza, conosco una fanciulla splendente come il sole stesso. Tu, un normale pescatore, conosci una fanciulla luminosa come il sole? Sì. Bene, ti do una settimana. Falla venire qui a corte. Vostra Altezza, non concordo che una signora dimostri la sua bellezza. Se la porto qui a beneficio della sua principessa, mi prometta che la riceverà come un ospite reale. Ti do la mia parola. Ma attenzione, se non la porterai, verrai punito. D'accordo. Quindi, il principe tornò nella foresta del suo regno e trovò la strada per la caverna del gigante. Ma per quanto ci provasse, non riuscì a trovare un ingresso, perché era allagato tutto intorno ed era impossibile attraversarlo. Il principe decise di tuffarsi in acqua quando qualcuno lo chiamò. Aspetta, principe! Tu chi sei? Sono la madrina della principessa. So che sei il principe di cui mi aveva parlato. Come hai fatto a riconoscermi nei panni di un pescatore? Lei mi ha detto che hai gli occhi sorridenti. Dov'è lei? Dopo che ti ha fatto uscire, il gigante si è arrabbiato così tanto con lei che l'ha rinchiusa nello stesso baule in cui aveva imprigionato te. E quando è una lepre, non può uscire dalla caverna perché lui ha allagato tutto attorno. Quindi deve rimanere nel baule. L'acqua all'interno è sorvegliata da un enorme pesce selvaggio. So come entrare nella caverna dalla tana che aveva fatto come lepre, ma non possiamo uscire dalla stessa parte. Non preoccuparti, sarà sufficiente entrare nella caverna e giacere nel baule con lei. La scatola è di legno, quindi galleggerà. Sono un grande nuotatore. Sarò in grado di tirarti fuori. Ma per quanto riguarda il pesce? Ho una rete che nessun pesce è abbastanza forte da spezzarla. Non ti preoccupare di questo. Vai dalla principessa, adesso. Quindi, la vecchia andò nella caverna, attraversò la tana ed entrò nel baule di legno con la principessa. Il principe gettò una rete nell'acqua e il pesce vi rimase intrappolato. Il principe nuotò nella caverna e tirò fuori il baule. Presto furono fuori dalla foresta. Oh, principe, mi hai salvato. Grazie. C'è un favore che devo chiederti. Sì? Il principe raccontò alla principessa e alla sua madrina tutto del re e di sua figlia. Non ti avrei mai chiesto di accompagnarmi lì, ma ho sentito che la principessa stessa è stanca del re che si vanta della sua bellezza e desidera che qualcuno di più bello vada nel regno in modo che il suo imbarazzo finisca una volta per tutte. Capisco. E naturalmente ti accompagnerò. È un bene che i festeggiamenti siano durante la notte. Sarò me stessa allora. Come può l'incantesimo del gigante su di te essere spezzato per sempre? Può essere rotto se cammino attraverso una nebbia d'oro. Quindi viaggiarono verso il regno, ma quando raggiunsero il palazzo, il principe fece una strana richiesta. Prese una scatola di legno e chiese alla principessa di giacervi dentro. Quindi portò la scatola a palazzo. Dov'è la ragazza che dici essere più bella di mia figlia? Altezza, è nella scatola. È uno scherzo? La fanciulla luminosa è in una scatola? Non lo trovo divertente, giovane! Datemi solo un po' di tempo, vostra altezza. Potreste spargere un po' di polvere d'oro? Potrà punirmi quanto vorrà dopo. Ma mi dia ascolto solo per alcuni minuti. Ottimo! Dategli un barile di polvere d'oro. La polvere d'oro deve essere messa nei tubi e deve essere soffiata in modo che si alzi come una nebbia dorata. Sua altezza sta sprecando il nostro tempo. Se è così, dovrà pagare per questo. Per ora affidiamoci di quello che dice. Quindi i tubi furono riempiti di polvere d'oro e centinaia di guardie furono messe a soffiarci dentro, in modo che la polvere si sollevasse come una fitta nebbia dorata. Quando la nebbia fu abbastanza densa, la madrina aprì la scatola e la principessa si alzò. Uscì dalla nebbia dorata. Il suo incantesimo fu finalmente spezzato e l'intera corte rimase incantata dalla sua immensa bellezza. Mia signora, sei davvero la donna più luminosa del mondo. Vedi, padre? Ora, per favore, smettila di vantarti della mia bellezza con tutti. Risparmiami questo imbarazzo quotidiano. Posseggo molto di più della semplice bellezza. Mi dispiace, mia cara. Pescatore, come hai fatto? Il principe disse al re tutto di sé e della principessa. Il re fece in modo che tornassero nel regno del principe, dove si sposarono e vissero felici e contenti. Il gigante non li disturbò mai più, ma anche loro fecero attenzione a non avventurarsi più vicino alla sua caverna. E il re imparò che la bellezza non è tutto.